professor Zink, Ötzi è senz'altro la star del Museo di Bolzano e oggi richiama di fatto altri pezzi straordinari. Chi sono e da dove vengono queste mummie che faranno di Bolzano capitale appunto delle mummie europee? Ah, sono mummie provenienti da tutto il mondo che mostrano gli aspetti più diversi della mummificazione. A fianco alla mummia di un dinosauro e altre mummie di animali vengono presentate mummie umane provenienti dall'Egitto, dall'America del Sud, dall'Asia, dall'Oceania e dall'Europa. Vengono presentati sia corpi mummificati artificialmente, come ad esempio quelli delle mummie egiziane, ma anche corpi mummificati naturalmente, come quelli delle mummie delle paludi o corpi mummificati naturalmente come quelli delle mummie delle chiese e anche delle catacombe. La mummificazione è un fenomeno culturale mondiale, come mostrano le mummie di un giovane uomo dall'Asia orientale e la testa tatuata di un antenato Maori proveniente dalla Nuova Zelanda. Dunque, ci sono mummie che sono progettate proprio per la vita eterna, e di questo forse quelle più conosciute a noi sono quelle egiziane, e poi mi diceva ci sono alcune mummie che sono degli incidenti della storia, in fondo Ötzi è un buon esempio di questo. Sì, Ötzi è uno dei esempi di mummie che ci sono formate per caso grazie ad eventi climatologici e ambientali che hanno permesso di fermare il processo naturale della decomposizione. Altri esempi dello stesso genere sono le mummie delle paludi dall'Europa del Nord che si sono formate grazie alla costituzione particolare del terreno e alla mancanza d'aria. L'altra categoria di mummie è quella che si rifà alle culture che usavano la mummificazione con lo scopo di mantenere i corpi intatti nell'eternità. In Egitto e in alcune parti dell'America questa cultura della mummificazione lavorava tramite procedimenti accurati di mummificazione artificiale. Nell'America del Sud si sfruttavano le condizioni climatiche delle Ande, ma anche in Italia, ad esempio in Sicilia, nell'Evo moderno sono state sfruttate le condizioni climatiche favorevoli delle catacombe e delle chiese per permettere l'essiccamento dei corpi. Quindi ci sono varie tecnologie, o si sfrutta la natura oppure si crea una tecnica e una tecnologia. Ecco, professore, chi è stato, diciamo, ci può fare un esempio di innovazione significativa, di chi ha raggiunto un grado tecnico molto elevato? In generale, lo scopo della mummificazione è il rapido essiccamento del corpo e con questo l'interruzione del processo di decomposizione naturale. Gli egiziani hanno perfezionato sempre di più questa tecnica nel corso della storia e sono stati in grado di prevenire anche la decomposizione interna dell'individuo prelevando gli organi interni e il cervello. Avvolgendo le mummie in bende, cospargendole di oli, resine e bitume, sono riuscite a preservare le mummie in maniera permanente dall'umidità e anche dall'aggressione di microorganismi. La mostra espone anche l'interessante caso di una mummia dall'America del Sud, la mummia di un bambino che era trattata con sostanze mummificanti che finora si conoscevano prevalentemente dagli egiziani. Ötzi, in primo luogo, l'abbiamo detto, è il padrone di casa, è stato una vera e propria miniera di informazioni antropologiche. Cosa raccontano le altre mummie che saranno raccolte a Bolzano? Le mummie ci aprono un sguardo unico verso l'antica cultura e la loro concezione della morte, dell'aldilà e di una possibile vita dopo la morte. Ma non solo questo, le mummie ci raccontano della loro vita, delle loro condizioni di vita, delle malattie di cui hanno sofferto e anche delle possibili cause della loro morte. Sono proprio questi ultimi temi del nostro lavoro di ricerca in collaborazione con il Museo Reichs-Engelhorn di Mannheim. La grande mostra sulle mummie rappresenta quindi per l'OIRAC un'occasione unica per quanto riguarda lo studio di mummie provenienti da diverse parti del mondo. Ecco, professore, alcuni anni fa una ricercatrice canadese aveva organizzato una spedizione e sperava di trovare il DNA della spagnola, quindi dell'influenza devastante al termine del primo conflitto mondiale, nei corpi di alcuni minatori norvegesi seppelliti nel ghiaccio delle isole Svalbard. Non ci riuscì, ma l'idea, devo dire, appare molto suggestiva. Si possono ottenere informazioni genetiche dalle mummie? Sì, certo, in verità è riuscito poi ad un altro gruppo di ricerca a isolare il virus della spagnola da corpi di uomini seppelliti nei terreni del ghiaccio permanente dell'Alaska. Noi, per esempio, siamo riusciti ad isolare il DNA degli agenti patogeni della tubercolosi in mummie egiziane e anche europee. In questo modo siamo riusciti a raccogliere informazioni molto interessanti riguardo alla frequenza e alla trasmissione della malattia e anche riguardo all'evoluzione dell'agente patogeno. Ad esempio, grazie alle nostre scoperte abbiamo contribuito a confutare l'originaria idea che la tubercolosi umana si sia sviluppata dalla quella bovina e seguito alla domesticazione dei bovini. È possibile anche l'isolamento e l'estrazione di altri agenti patogeni dei corpi mummificati, come ad esempio quello della lebbra o della malaria. In genere, lo studio di questi ci potrà aprire l'orizzonte verso una migliore comprensione di queste malattie e del loro sviluppo. Professor Zink, oggi qual è la tecnica, diciamo, più aggiornata per conservare un corpo ed impedirne il decadimento? La tecnica più moderna è usare l'azoto liquido come si fa negli Stati Uniti, per esempio.